sprechi sulle spalle di tutti gli italiani. Siamo noi a pagarli, i vostri lussi estremi, auto blu e milioni, canababbi, viaggi e treni, mentre il popolo ha fame, voi vi godete le pensioni. Non te reggo, non te reggo, non te reggo, non te reggo più. Non te reggo, non te reggo, non te reggo, non te reggo più. Che ci costa un occhio della testa, la politica è un servizio, un dovere, punto e basta. Chi si arricchisce in nome del popolo non è un privilegiato, è solo un ladro, un uomo senza dignità né fiato. Non te reggo, non te reggo, non te reggo, non te reggo più. Non te reggo, non te reggo, non te reggo. Non te reggo più, non te reggo, non te reggo, non te reggo, non te reggo più, non te reggo, non te reggo, non te reggo, non te reggo più. Se dice non te reggo, non te reggo, non te reggo, ma che me frega, non